altro hai? Quello che avevo io, la Remeitali. Io ho quello ZG, tanto per quello che serve, c'erano attaccati tutti e due, te lo ricordi, disturbava ugualmente, a chi vanno le antenne, raseghi, chiti. Sì, sì, quello è chiaro. Però ho detto, io non, con tutte le mie forze non sono riuscito a fare TV AI da me, niente. Ho provato tutti i canali, niente. Come vedi? Infatti a me mi interessa che esco bene, cioè che arrivo bene il segnale, ma ne sbatte nulla, dai. Che è il brecco basso? Allora Ricca, non so se sia una portante, ma ti sento con una forte vibrazione, però credo che sia una portantina sotto. Vabbè, non ho capito niente peraltro. Natalia, l'hai sentito tu meglio? Non rispondi, beh ciao, vado a farmi il caffè signori, me lo faccio doppio, triplo, con panna, con cannella, con tutto. Vado anch'io a mangiare, dai, ci sentiamo. Scusa già, ma tu, io credo avessi chiuso, No, ho detto un attimino perché è venuta di lì a casa, mi sono assentato, dai. E poi ho ripreso, stavo ascoltando, non c'è problema, io non mi incazzo per queste cose. Vabbè, tanto non c'è mordente, non ti hanno so cosa dire, sono tutto mezzo accaldato. Guarda, oggi ho sofferto il caldo a piedi al centro e tuttora in casa ho caldo. Cioè, mi devo mettere in bermuda già, non ho capito. Meno male che me ne sono accorto, il trovo che è atterrato tutte le gambe di lucidi con lucidi a bocca aperta, col becco aperto, c'erano caldo da crepare, ho dovuto mettere subito i bagnetti, come ne ho messi ci avevo fatto subito il bagno, ma almeno sono rinfrescato un po'. Cavolo, caldo. Vabbè, il mio indicava 23 gradi nel pomeriggio, massimo 24 all'ombra. Non so poi come ne misurino, perché se vai a vedere i TG ti diranno 30 gradi a Sassa e 35 gradi oggi. Non so come ne misurino, forse al sole ne misurano. Aspetta già che chiudo, dai, che vado in cucina. Sentiamo più tardi se ci siete, dai, ciao. Ciao, Flavio, dai, chiudo anch'io, dai, mi saluto tutti cordialmente, buona carica che quando l'ha fatto. Ciao, vado a fare un po' di pavette, dai. Buone. Come le fai con la pancetta anche? Con i dadini, cubetti di pancetta? Mi metto i dadini, un pochino di latte per togliermi l'aspro che c'hanno. E poi aglio, prezzemolo e un po' di peperoncino. Mamma mia, mi sta venendo voglia. Buone comunque. Sto arrivando, Sì, arrivo, sono ancora 15. Un po' troppo vinto, sì. Buonasera a tutti, un abbraccio circolare. No, anch'io sono arrivato adesso, anch'io fra un po' devo sbucciare fame anch'io. Non c'è dubbio. Vai, cuomani! Paolo, ci sono già pronte, già fatto tutto. Volevo fare complimenti a Riccardino che mi arriva con un segnale di 7 e una radio di 5. Vabbè, 9 e 5 mi arriva Riccardino, lo sai. Cosa ha fatto? È col portatile, capito? È dalla nonna, non è a casa sua. Mi stavo già illudendo che avessi migliorato come antenna. Riccardo. Riccardo, Santiago 8, magari arrivassi così da casa. Caspita, non sei mai arrivato così. Sei fortissimo, complimenti, dai. Vicino a noi, dai, fra. Infatti, mi sembrava... Ma sicuramente ha montato una buona antenna, ha detto l'ha sollevata, qualcosa ha fatto, invece no, è pazienza, comunque. Però adesso l'ascolto bene. Mezzugai. Beh, Luca, sta a posto. Tutto a posto, niente d'ordine. Sì, dimmi, Rica. sì, infatti io ogni tanto passo, diciamo, sotto casa tua, no, lungo la ferrovia con le macchine operatrici, da coi treni, quando li faceva ormai è tutto chiuso. Sì, io mi ricordo che ho venduto un Suzuki nero, bellino, che a me piaceva, ero anche affezionato a quella macchina, perché poi avevo preso un altro fuoristrada più grosso. A lui si aveva una macchina, mi ricordo, aveva fatto questo ragazzo, non mi ricordo il cognome, però mi ricordo la zona e il lavoro che fa, dai, penso che lavori ancora, sì. E allora, no, allora non lo so, se l'ha cambiato non lo so, ma ripeto, io ti parlo di tanti anni fa, Perfetto, era quello primo che hai detto. Sì, sì, che fine ha fatto con la macchina, È diventata cagliaritana, vabbè, comunque. Piano piano, vista, gira, vabbè, tu non eri neanche nato, forse neanche nei pensieri. E non so, comunque anche io vado e anche devo preparare, sono stato giusto per salutare gli amici, vi saluto nuovamente, e poi non so chi ci sia, forse c'è Natalino, ci sei? Sì, come mi stai ascoltando, di radio? Va bene, per me potresti anche abbassare, perché sento anche i rumori di casa. Un po' alto. L'amplificazione, sento anche i rumori esterni. Prova a abbassare. Guarda, adesso ho abbassato. Abbassa ancora? Sì, sono in quella zona lì. Ma, Natalina, se fa un po' di vento ti tocca l'antenna tua col portatile. Sì che sto lì, Gianni Lubrofetta non lo so di preciso. Ha un po' più verso la stazione Gianni Lubrofetta. Devo sbucciarmi una busta di fave, altro che mezz'ora, ci vanno 2 ore solo per sbucciarle. Vabbè, dai, cosa volevo dire? Prova Natalina, mette la portante bianca. Si sente ancora il rumore, abbassa ancora. Tra un po' non esco di radio. Prova, vediamo qual è il limite, in modo che rimani una buona radio senza sentirti i rumori di casa. Guarda. Si sentono ancora, abbassa ancora. Guarda un po', c'è la capsula normale. No, si sente ancora, cos'è? Ventole, cosa sono? Cosa fra? Cioè, ventole. Può darsi che sia quella dell'alimentatore magari che si sente. Io non la sento. Abbassa che sentite tutto a passeggio. Abbassa ancora. No, aumenta. Così guarda uno. Tieni la portate. Adesso vedi, già non sento il rumore di fondo. Prova a aumentare appena appena finché non si sente qualcosa. Guarda, 2. No, così è troppo. Aumenta. Bene, però si abbassa un po' la radio. Guarda, così bene va. Però si sente sempre quello che ti circonda, capito? Anche da me si sente adesso. No, ventola si sente. No, io ventola non ne ho. Se c'è, ma è proprio sotto di quelle da computer, ma rumore non ne fa. Vabbè, così bene va. Adesso non sento, forse non sta parlando nessuno, no? Quando parla mia moglie si sente anche quando è in cucina. Dai, vi lascio, saluto a tutti quelli che stanno all'ascolto, a più tardi se coincide, se no a domani. Ciao, fra. Capa, ciao Riccardo, salutami tuo babbo allora, o tuo padre come lo chiami. Ehi, a più tardi, io già ho mangiato. Ehi, ciao Lu. Ciao, fra. Beh. Beh, lui nessuno c'è. Da mangiare sono andati. Ah, sì. Tutti a papai. Tu mangiato? Ho mangiato dei supplì, roba veloce, dai, un coso, un pezzo di spianata con un po' di affettate, una mela, niente di più. Io una fettina fatta da pranzo e frutta. La frutta bisogna sempre mangiarla, se è possibile, è una cosa che fa sempre bene. Ho fatto questi aranci, queste arance, buone, dolci dolci. Ma tu vi a Pasqua li vai a prendere? No, io lo compro lì a Pam, via Grazia dell'Edda. Via Grazia dell'Edda, ma dove c'è il coso, la coppa, cos'è? Dove c'è la multiedu prima. Io ho capito. Lì, adesso non è più multiedu, è Pam. Ma che tu non abbiati il tuo coso, ma poi scimmie robe. Ma ho capito. Ma non mi ha preso questa alimentata, l'ho detto. Qua se ci riesco domani ti chiamo. Oggi ero da una parte all'altra, ho fatto un sacco di cose, poi mi ha chiamato una tipa per mettergli in moto una macchina, sono costato un quarto d'ora esistendila, mi ha dato appuntamento in un'edicola e lei era in un'altra edicola, ha detto che tanto, poi chiama in officina quando sono rientrato, ma non è venuto, non so, io sono venuto lì che non si fa. Ma io perché dico in un'altra edicola era. Ah, mi chiamo per anche per queste cose mi chiamano. Vabbè, una cliente questa mi ha fatto. Poi insistendo, la batteria me l'ha cambiata lei l'anno scorso. E mi ha scritto che l'ha cambiata la data, ha detto guardi non sono io, è impossibile che l'abbia fatto, perché io non le scrivo, di al limite gli do la fattura dove c'è scritto la data in cui è stata sostituita, ma mai scritto alla batteria con il pennarello è indelebile che quando l'hai cambiata. Arrivo di lì, questa me l'ha cambiata lei, ho fatto guardi legga cosa c'è scritto qua, c'era la data, legga da chi è firmata, un certo Lombardi, non so chi sia, un meccanico. Ah mi scusi, io ero convinto che me l'avesse cambiata lei. Ma lì sta insistendo, e poi mi sono anche un po'. Mi faccio la seduta un'altra volta. Oh, sono rientrato. Via, sta quando. Lasciala da. Questa. Quello di cuffie senza fili per il computer mi serve. Sto con il microfono. E le ho viste, lasciala da. 7,90. 13 euro. Ma col microfono le vuoi? Allora. Ah no, vabbè. Io l'avevo preso senza fili e ti posso dire che suonano, nel senso, funzionano che è una meraviglia da Portobello, nuove in scatola a CAI, ne hanno preso per essere uno stock, ce n'erano una diecina, io le ho pagate 12 euro, c'hanno anche la radio incorporata, sono senza fili oppure le puoi utilizzare con un filo, ma tu devi sentire quanto si sentano bene, per 12 euro sono fatte bene, anche belle imbottite, belline. Suonano qua, a CAI mi hai detto. A CAI, però sono, non hanno il microfono qua, almeno aspetta, fammi vedere se durano il microfono. No, non è un microfono. Le JBL sono buone. Già lo so, cacchia. Senase, già ce ne sono matti di cuffia. Cacchio, sono andato per il coso di Natalina, non so quanto ne vuole Tonino dalla GBC. 300. Mari posso scendere attirando, il problema è che siamo in un periodo che adesso tutta la gente, lui ha sentito che la gente si sta riavvicinando, cioè Mari me l'avrebbe dato molto di meno, sono sicuro, come mi ha dato a me un apparecchio che costava un po' di soldi, me l'ha pagato, almeno la metà di quanto costava me l'ha fatto pagare. 300 quello e 200 l'Alan 48, però l'8001 è una bellissima radio, Luca, io l'ho vista, non l'ho provata, però l'ho vista toccata in mano, ho visto tutte le prove, è una grande radio, molto molto meglio dell'Alan 48, c'ha le bande laterali, si può lavorare se uno voglia fare modifiche, c'è più spazio. Sì, sì, senza ombra di dubbio. Ma 300 euro su 300 euro, cioè 300 euro si piglia un 740, un 440 si dividi. Sì, quello è vero, ma io sono sicuro, se vado 2,80 me lo dà, Natalino mi ha detto che lo trova in continente a 2,60, però devi considerare il trasporto, ti chiederanno minimo 15-20 euro, dopodiché se non funziona, se è rotto, se c'è qualche problema, magari lo do reddito. Infatti è quello, e che ne sei roba, e che ne sei, Io mi ricordo, Robè, tornando al discorso delle cuffie, lì a Media World mi pare, cazzo anche 500 euro un paio di cuffie. Dipende da cosa compri, ce ne sono anche che costano migliaia di euro, naturalmente non le trovi a Media, ci sono cuffie con soppressione del rumore, quelle che non senti i rumori esterni, eccetera, ci sono cuffie elettrostatiche, dinamiche, viene una sciarada di cose, diciamo una cuffia discreta con una settantina di euro se vuoi ascoltare musica, non ascoltare computer, vuoi ascoltare qualità già la trovi. Ma queste cuffie, allora, senza fili hanno le batterie? Naturalmente sì. Ecco. poi ci sono queste qua, Sony 42, robe, tipo quella che sono nelle orecchie adesso. No, queste sono del computer, sono qui live. Che marca? Qui live. Non la conosco, avete qualche marca così fittizia che non esiste, ci hanno messo il nome, magari il componente può essere Sony o qualunque altra cosa. Infatti, e poi bisogna vedere quanto durano le batterie. No, non durano, cioè non pensare che tirano molta potenza, sono pochi milliwatt, consumano una voglia che dura tipo un microfono, non pensare che sia una cosa che assorbe tanti ampere, o sono pochi milliampere. Dimmi una cosa, quanto lo paghi le RG 58 da Fusaro, Luca? Chi ne ha mai comprato? No. Io ho preso quanti metri sono? 50, mi va, 40, 50 metri. Però ho comprato quello fatto a buon prezzo, L58 U. Allora sono andato stamattina da Torino, gliel'ho chiesto, non le metto cavo grosso perché voglio mettere un'antenna così senza neanche alzarla, 2 metri di palo, che è già talmente grande per ascoltare le bande HF e trasmette anche con la radio, fa anche da 0 a 30, per cui la 27 la voglio provare quando c'è un po' di confusione di Aburuttu, di QRM, magari mi attacco quella lì. Ho chiesto il cavo, mi ha detto le RG 213 non ce l'ha, il 1000, ma mi ha detto costava sui 3,50 al metro, giù di tutta la faccia, mentre le RG 58, quello buono, con la calza pesante, me lo dà 1 euro al metro, e anche i prezzi sono saliti da una cosa esagerata. 1 euro al metro, ma se la 58 ti serve? Sì, lo devo comprare io, perché ce l'hai il RG 58. Aspetta, quante ne servono, robe? E io penso una ventina di metri ce ne vorrà. Quello U va bene lo stesso, è poco a poco più grosso, è più, secondo me è molto meglio del 58 normale. Sì, è migliore, quello U è superiore, c'ha un isolamento migliore, è migliore. Diciamo, non sono sicuro se ne battino 15 metri, perché non deve fare tanto tragitto, non è in alto l'antenna, cioè devo fare due piani, sono 3-3, sono 6, più il pezzo del coso, diciamo altri 5 metri, 6-5-11, dagliene altri, 18-20 metri ce ne vogliono. Allora, 58 normale a 1 euro al metro? A me me lo dà quello buono, l'RG 58, quello buono, con la guaina grossa e con la calza abbondante, diciamo fitta, perché c'è anche quello economico, me lo dà 1 euro, certo, te lo dà 1 euro mi ha detto. Che se no quanto è? Non lo so, non ho idea, Luca. Io ero abituato a 0,50, 0,60. Domani chiedo a Fusaro, per curiosità, gli dico quanto costa. Il 213, quello 1000, quello a norme militari, quello costa, lo so. Ieri è venuto Giovanni Bracco, mi ha detto te lo do io, ce l'ho, quello militare. Poi guardate, invece è a 75 mm, è un cavo blu, ma è visto, anzi azzurro, 28 metri me ne ha regalato. Però è a 75 mm, bello, ma grosso, tu vedi quanto è fatto bene questo cavo, grosso non come 213, un po' più grosso dell'RG 58, però c'ha un rivestimento, sembra di quelli guaini, quei fili di alta tensione, duro, grosso, bello. Allora, qua c'è una matassa da 25 metri, 19 euro. Allora, su internet? Sì. Vabbè, più o meno, dai, però devi ordinarlo. Allora, se fosse stato cavo, io ne ho preso due matasse da 100 metri, vabbè, adesso l'ho usato di cavo SAT, quello grosso, nero, da 75 ohm, ne me ne è rimasto ancora, penso, un 25 metri, 30, non lo so. E poi ce n'avevo quello bianco, quello standard, ne avevo dato una stessa una ventina di metri, se no avrei usato quello, purtroppo meglio metto la 52 ohm, anche se lo userò in ricezione, però metto 52 ohm. Ah beh certo, se mi risponde aspetta. Guarda quanto costa il RG 59 1000. RG 59 1000? Ah vabbè. Sì, cacchio, ti ho risposto a voce. Ho detto sì, mi sono dimenticato di schiacciare il mic. Allora, bobina a cavo coassiale RG 59 livello schermatura 2x50 costa, dai visto, questa è una matassa da 20 metri, caro E ce ne sono ben cavi, roba. Qua mi dice 19,90 più 7,90 di spese. Quante volte paghi più la spesa di spedizione che l'oggetto, allucinante. A me l'ho trovato cavo colossale 1000, doppia guaina, cioè quello è un bellissimo cavo, quello va bene per antenne, ma tu vedi quanto ho fatto bene. Allora qua il cavo, una matassa da quanti metri è questo, però mille messi i paloni e paoloni, questo è una matassa da quanti metri, 27,35 euro, però è nero. C'è questo qua, cavo RG 213 U1000 C17, matassa da 50 metri, 99 euro. Quindi sono 99 euro, quanti metri hai detto? 50. Quindi verrà su 2,50 euro, un po' di meno di quello che te lo dava la GB. Se li fanno pagare in cambio, ma e poi la Camille Cerflex, quello Cerflex l'hai mai visto, quello che usano per potenze per qualche migliaio di watt, li usano nei punti ripetitori, che è grande quanto usa di Bussudi, mi fanno un riferimento quanto la testa del microfono Turner. Questo cavo coassiale bianco, non lascia vedere, come se questo qua, allora, 300 metri di cavo coassiale alluminio con due cavi elettrici, 100-300 metri, 115 euro. Ma quello è il cavo TV, quello c'è anche l'alimentazione per quando lo usi per il SAT, quando c'hai nei vecchi cavi SAT, perché adesso con il DISEC non c'è più bisogno, quando ti serviva un'alimentazione per commutare i 22 kHz, quando c'avevi i convertitori vecchi di vecchia generazione, c'avevi l'alimentazione, c'ha oltre il cavo SAT, o quello però 75 ohm, c'ha due cavi di alimentazione. Questo qua, cavolo, come questo cavo, allucinante. Cavi ce ne sono decine e decine di modelli. Io ho quello nell'antenna mia, ho preso quello 1000 perché me l'ha consigliato un amico, uno che se ne intendeva tanto, detto, prendi il 1000 e metti i connettori, quelli Amphenol, li conosci gli Amphenol? Aspetta un attimo. Io. C'è qualcuno su 10 qua nel frattempo. Perché Riccardi dove fa parlare? No, ok, Riccardi tu sei. No. E a voi vi doveva arrivare a Momma, perché lui era lì vicino al ponte di Rosello, mi ha detto. E dove Luca arriverai a Fondo Scala, perché è vicino. E Natalino, tutti quelli. A me proprio mi arrivava a Santiago sì, ma non riuscivo a capire quello che diceva. 203 se ne serve. 203? Ma sempre da comprare di lì Inter. No, aspetta. È Gantu, maestrale me l'aveva dato un bel di 213, c'erano delle ispezioni di 20 metri, chissà che fine ha fatto, ho tirato rampato, perché poi l'ho tagliato a pezzi, c'erano delle parti dove c'era la guaina catramata incollata, mezzo sciolto, per cui insomma ce l'ho buttato. 1,50. Quanto? 1,50. 1,50 te lo dai, chi è questo? E tu, se lo fammi sapere. Ma ha usato un nuovo? Nuovo, robè, nuovo. Vabbè, dai, già mi interessa. Adesso mi guardo esattamente se bastano 20 metri, perché è inutile ne prendi di più, perché poi solo è un bel rigido quel cavo, se lo porti dentro poi è un peccato tagliarlo. Mi guardo più o meno quanto me ne occupo, ma 20 metri dovrebbero bastare, 18 metri penso di sì, ma pari 20 metri. Ma qua sa se. Vabbè, ci mettiamo d'accordo. Allora non lo prendo da fusare, guardate che sia cavo. Ma che modello è? 213.000 o normale? Aspetta, comunque mi ha detto un cavo buono, roba buona. Cavo buono. Chi te l'ha detto? Aspetta, si vede. Di controllare se te siamo veramente 20 metri o se ne vuoi di più. No, 20 metri già dovrebbero bastare, magari anche 15. Adesso vediamo, dai, mi faccio le misure più o meno quanto è il palo, mi sembra sia meno di 3 metri quel paletto di lì, poi devo arrivare all'antenna, non mi ricordo com'è l'antenna, la base, se ce l'ha attaccato al basso o il piantone, siccome c'è una carica sotto quell'antenna. Ho capito. Aspetta, vediamo. Prossimo ti metto in contatto. Ma lo conosco questo. Aspetta. Chi è che sta parlando? Tu sei Riccardi. Luca, ci sei? Oh, è Beffa. Oh, ciao Robè. Che c'è altro? C'è Luca, c'era Luca almeno. Luca ci sei? Sì. Comunque lo puoi chiamare tranquillamente domani, anche adesso se vuoi. Poi ti d'accordo. Vabbè, non c'è problema, domani mattina lo chiamo così. Non disturba nessuno. No, ho visto, buono il discorso. Poi vabbè, già mi arrangio con lui. Cosa volevo dire? C'è Franco, avanti Franco per lui. No, con Luca ci siamo sentiti poc'anzi. Ascolta, cosa è entrato oggi in Lupo Grigio? Dice a me o a lui? Tutti e due, entrambi. Oh, che un gioco non lo sento. Ma, cambiato idea? Ma io non vorrei che qualcuno gli avesse fatto passare la guglia, non ci credo. Poc'anzi c'era Riccardino, mi stava arrivando un segnale di 8. Io ho capito, ma ha messo l'antenna buona, invece no, dice che era qui a, vicino al mercato, quindi ce l'avevo vicino, dai. Non lo so, infatti era da l'anno, stava provando l'antennino veicolare. No, qua doveva, sì, in mezzo a QRM, ma non capivo quello che diceva, infatti mi ha chiamato per fare una prova, gli ho detto no, guarda Riccardi, mi dispiace, non ti ascolto. No, mi dispiace il lupo grigio, era in gabba, purtroppo non so se abbia risolto il fatto dell'antenna, però è già da un po', più di una settimana che non lo sento. Allora, chiama quel numero, Roberto, alle 13 alle 14, fino alle 14, dai, massimo. Domani, poi vabbè, lui lavora la cosa, abbiamo capito, dai, già lo so. Via. Un attimo, una bassa. Ma ci credi che quella persona che mi ha portato il cavo ieri notte mi ha detto che vado da quello lì a farmene dare, che tanto ne ha molto? Non da lui personalmente, non da quello che stai dicendo tu, da dove lavora lui. Un attimo, Roberto. Ehi. Oppure dalle 17, anche dalle 18, dai, in poi. Non c'è problema, no, adesso non mi va a chiamarlo, dai, così mi guardo bene la misura, se va bene con la matassa da 18 metri prendo quella, dai, così non sto a tagliare quella più lunga. 19. 19, e ho visto una da 15 metri, 16 metri, una, vabbè, 18-19, siamo lì, dai, e poi c'è una più grande, vabbè, la più grande cosa me ne vuoi. Poi secondo come ripiazza sotto l'altra antenna, buro. Lo sai che c'avevo una direttiva insieme a quella grande, Salvatore Maestro mi aveva dato anche una direttiva, non me lo ricordavo neanche, quella 26. C'è qualcuno sul 10? Avanti.